Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves. Buonasera a tutte, oggi leggeremo un estratto del testo di Nicla Vassallo, Donna m'apparve, e ci ricolleghiamo in qualche modo alla puntata dell'8 marzo in cui siamo andate in onda leggendo il prologo di questo testo, scritto sempre da Nicla Vassallo, e oggi leggeremo l'epilogo, la parte finale, l'ultimo capitolo, che è diviso, diciamo, in due brani, quello che leggeremo su sesso e genere e il secondo brano sulla vera donna. Ricordiamo che Nicla Vassallo ha scritto questo testo in collaborazione con altre teoriche, altre studiose del genere, e però questi due brani li ha scritti lei. Ricordiamo anche che Nicla Vassallo è professore ordinario di filosofia teoretica presso l'Università di Genova, e questi estratti sono presi dal testo Donna m'apparve. Su sesso e genere. L'appartenenza a un sesso e o a un genere è naturale? Nel senso che essere femmina o maschio, donna o uomo, non è questione su cui si possa decidere. Cosicché se sei femmina o maschio, donna o uomo, sei tale per la tua intera esistenza? Il ruolo del sesso e del genere opposto non lo puoi vivere, ma solo recitare in determinate occasioni, a carnevale, sul palcoscenico di un teatro, a una festa in maschera e via dicendo. I genitali sono una caratteristica essenziale del sesso e genere di appartenenza, così che se hai una vagina sei donna, mentre se hai un pene sei un uomo. Le eccezioni ai due sessi e generi sono necessariamente da classificarsi come patologie? Si può ragionevolmente parlare del sesso in quanto categoria di tipo biologico e del genere in quanto categoria di tipo socioculturale, conferendo al sesso una dimensione descrittiva, mentre al genere una dimensione sia descrittiva sia normativa? Oppure, affermando che il sesso è una categoria biologica e il genere una categoria socioculturale, ci precludiamo la possibilità di individuare gli aspetti socioculturali del sesso? Sostenendo che tutte le donne appartengono al medesimo sesso femminile e tutti gli uomini al medesimo sesso maschile, non incoraggiamo invece una certa cecità nei confronti delle tante differenze che sussistono tra le stesse donne e tra gli stessi uomini, oltre ovviamente a dimostrarci ottusi nei confronti di tutti quegli esseri umani che non sono né XX né XY? Conduciamo intere esistenze senza porci simili domande, ma a volte basta poco perché ci vengano in mente, e quando iniziamo a interrogarci sul serio, sono anche le nostre stesse esistenze a mutare, perlomeno nei modi di vivere e di interpretare il sesso e il genere a cui riteniamo di appartenere. Basta poco, nonostante alcune inesattezze scientifiche. Basta anche un piccolo bel film come XXY, Spagna-Argentina 2007, scritto e diretto da Lucia Puenzo, che ci racconta di Alex, una quindicenne o un quindicenne, il nostro linguaggio è sessuato, di fronte al proprio patrimonio genetico, che presenta gameti sia femminili sia maschili e che viene vissuto dai più come una vera e propria anomalia relativa all'identità sessuale di genere e non semplicemente come un fatto cromosomico. Nel mostrare le molteplici sfaccettature dell'intenso malessere di Alex in una società che le gli impone di sentirsi diversa, diverso, il film ci conduce a sospettare che sesso e genere non siano altro che categorie prettamente normative, fondate sul pregiudizio che esistono solo due sessi e o generi, femmine e maschi, donne e uomini, in relazione esclusiva tra loro, femmine in relazione con maschi, donne in relazione con uomini, senza che si diano altre possibilità accettabili. Al termine del film abbiamo la netta sensazione che la presunta oggettività e necessità delle categorie sesso e genere vengano meno, mentre ci appare artificiosa la divisione biologica in due soli sessi e quella socioculturale in due soli generi. Forse è il caso di iniziare a convincerci che il maschio e la femmina, l'uomo e la donna non esistono. Se con l'articolo determinativo intendiamo richiamarci a entità universali e catturare essenze maschili e femminili. Queste entità essenze possono addirittura essere pericolose perché azzerano o rendono incomprensibili le tante differenze che corrono tra femmine e tra donne, così come le tante differenze che confluono tra maschi e tra uomini. Sono senz'altro entità essenze che ci inducono a sottolineare le banali e logore differenze tra femmine e maschi, tra donne e uomini, rischiando di enfatizzarle indebitamente, allo scopo di condizionare comportamenti e competenze declinate al maschile e al femminile. Già codificabili a misura delle più multiformi pretese socioculturali, economiche, religiose delle tante civiltà passate e presenti, le entità essenze in questione si vincolano ad assumere determinati tratti psicofisici, ruoli, atteggiamenti, a evitarne altri, e ci segregano con risultati non difficili da immaginare in due sessi e o in due generi che fanno tradizionalmente capo ad ordini simbolici antitetici, l'uno caratterizzato da razionalità, attività, culturalità, oggettività, l'altro da irrazionalità, passività, naturalità, soggettività. Attribuire importanza al genere equivale in effetti ad affermare che esistono variazioni cognitive significative tra donne da una parte e uomini dall'altra, e che quindi gli esseri umani non risultano cognitivamente interscambiabili tra loro. Si cede così facilmente alla tesi sessista secondo cui donne e uomini sentono, pensano e conoscono in modo differente. E dato che il fattore genere si interseca in modo inevitabile con altri fattori, per esempio razza, classe sociale, preferenza sessuale, oltre che storia personale, culturale, religiosa, età, si finisce con dover cedere anche alle tesi razziste secondo cui le differenti razze sentono, pensano e conoscono in modo differente. Alla tesi classista secondo cui classi sociali diverse sentono, pensano e conoscono in modo differente. Alla tesi eterosessista, secondo cui eterosessuali e omosessuali sentono, pensano e conoscono in modo differente. Benché sessismo, razzismo, classismo, eterosessismo ripugnino chi di noi ha un minimo di senno, occorre domandarsi se gli esseri umani condividono le medesime capacità cognitive, senza dare scioccamente la risposta per scontata, o credere erroneamente di poter dirimere la questione a tavolino. Il responso spetta alle scienze empiriche, e in particolare alle scienze cognitive. Non possiamo nasconderci che diversi studi scientifici avanzano la pretesa di avere definitivamente dimostrato l'esistenza di differenze decisive fra le capacità cognitive maschili e quelle femminili. Sappiamo però che se sottoponiamo questi studi a un vaglio critico, finiamo con il dubitare di qualsiasi elemento scientifico empirico che attesti in modo significativo l'esistenza di uno stile cognitivo tipicamente femminile contrapposto a quello maschile. Del resto, nel caso in cui trovassimo prove valide e sufficienti a favore di due stili cognitivi antitetici, uno femminile e l'altro maschile, sarebbe errato far finta di nulla, per insistere caparbiamente sull'esigenza di eguaglianza tra donne e uomini, come se non fossimo coscienti, tra le altre cose, che proprio questa esigenza non è riuscita a impedire note tesi acritiche che hanno portato a identificare tutta la cognizione con la cognizione maschile. Generally, my generation wouldn't be caught dead working for the man. And generally, I agree with them. Trouble is, you gotta have yourself an alternate plan. And I have earned my disillusionment. I have been working all of my life, and I am a patriot. I have been fighting the good fight. And what if there are no damsels in distress? What if I knew that and I called your bluff? Don't you think every kid figures out how to get down? Whether or not you ever show up. Be a pretty girl. I wanna be more than a pretty girl. In proposito, è sempre utile il confronto sia con l'approccio costruttivista sia con quello essenzialista. Stando al costruttivismo, ruoli, comportamenti, tratti, stili cognitivi risultano connessi al nostro sesso biologico e o al nostro genere in senso contingente. Per esempio, è esclusivamente socioculturale e di conseguenza reversibile la convinzione secondo cui i maschi o gli uomini sono più adatti e bravi a riparare un attrezzo, a decidere una strategia d'aggressione, a ragionare in termini matematici e così via. Stando all'essenzialismo, invece, ruoli, comportamenti, tratti, stili cognitivi risultano connessi al nostro sesso biologico e o al nostro genere in senso necessario. Per esempio, è intrinseca biologicamente, ma non solo, all'essenza maschile, di conseguenza irreversibile, la convinzione secondo cui i maschi o gli uomini sono più adatti e bravi a riparare un attrezzo, a decidere una strategia d'aggressione, a ragionare in termini matematici e così via. Anche volendoci concentrare sul sesso, è chiaro che non può rappresentare una semplice categoria biologica. Attraverso la nostra ansietà, credenze, fantasie, pregiudizi, esso ha subito infatti variazioni interpretative considerevoli nel corso della storia e ha continuato a subirle anche quando, da vera e propria scienza, la biologia ha chiarito che cos'è il sesso sotto il profilo strettamente empirico. Per quanto di solito ci appaia evidente, la distinzione tra esseri umani di sesso maschile e esseri umani di sesso femminile viene comunque formulata entro una particolare cornice teorica, soggetta a influenze che si devono a costruzioni socioculturali. Se fosse altrimenti, non verremmo classificati come femmine o maschi, anche nel caso in cui presentiamo organi genitali ambigui. Del resto, la distinzione in due soli sessi risulta poco giustificata sotto lo stesso profilo empirico, perché è incapace di rendere conto di tutti quegli esseri umani che sono intersexed. Si veda Fausto Sterling 2000. Malgrado ciò, diverse ricerche si riferiscono alle difformità ormonali o alle difformità nella struttura e nelle funzionalità cerebrali per trasformare in un vero e proprio destino biologico alcune presunte differenze tra le capacità cognitive ed emotive delle donne e quelle degli uomini. Si vedano Daly, 1978, Griffin, 1981, Jagger 1983, Vidal 2007, Vidal e Benoit Brouwers 2005. Nell'ipotesi in cui queste difformità esistano e siano effettivamente sintomatiche, si può sostenere o che non è affatto chiaro cosa esse comportino sotto il profilo cognitivo, o che esse determinano stili cognitivi dissimili, stando ai quali le donne prevalgono in compiti che richiedono memoria, competenze linguistiche, coordinazione meccanica, percezioni rapide e precise, mentre gli uomini prevalgono in compiti che richiedono abilità motorie, attitudini spaziali, competenze logico-matematiche, percezioni di figure geometriche. Si veda per esempio Hines 2003. Per portare un esempio tra i tanti, si considera il rapporto tra donne e matematica e ci si chieda quanto sia lecito imputare alla genetica il presunto svantaggio delle donne rispetto agli uomini. In uno studio di qualche anno fa, ricercatori americani dell'Università della British Columbia mostrano che le prestazioni matematiche delle donne risultano peggiori nel caso in cui le donne stesse credano di essere geneticamente inferiori, mentre risultano migliori nel caso in cui le donne credono che l'inferiorità sia ascrivibile solo a pregiudizi di matrice socioculturale. In uno studio più recente, invece, i ricercatori inglesi dell'Università di Exeter indicano che le prestazioni variano in base alla convinzione preconcetta di appartenere a una categoria sessuale incapace rispetto a determinati compiti o a una categoria di altra matrice, per esempio etnica, capace rispetto ai medesimi compiti. Le donne asiatiche si dimostrano infatti meno abili in matematica quando si identificano con la categoria donne e assai abili quando si identificano con la categoria asiatici, dato che gli asiatici sono considerati buoni matematici. Try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sisters, my brothers, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears. Affermare che la cognizione femminile è diversa o contrapposta a quella maschile è una tesi essenzialista. Le donne possiedono un'essenza in comune e sono quindi essenzialmente simili, e il concetto di donna risulta unitario e gode di significati, elementi, attributi essenziali. Di conseguenza, in quest'ottica, tutte le donne possono venire considerate culturalmente collettiviste, dipendenti e correlate agli altri. Tradizionalmente sociali, pronte ai contatti umani e alle amicizie intime, dolci, empatiche, sensibili, adatte ai compiti di cura e non a quelli dirigenziali, intellettuali, militari, politici, scientifici. Umili e deferenti, poco assertive, fisicamente e psichicamente deboli, dotate di un punto di vista sulla realtà peculiarmente femminile, e così via. L'essenzialismo conduce inevitabilmente a classificare virtuosi i tratti femminili se si riscontrano in una donna e patologici se invece si riscontrano su un uomo. Così come virtuosi i tratti maschili se si riscontrano in un uomo e patologici se invece si riscontrano in una donna. Quindi, anche se dovessero effettivamente sussistere sul piano biologico, le differenze sessuali si tramutano comunque e presto in differenze di genere, cioè in aspettative di tipo socioculturale su donne e uomini, su come una donna e un uomo devono rispettivamente presentarsi, comportarsi, pensare e sentire. Dato che sono mutate nel corso della storia di una medesima civiltà e variano attraverso le diverse civiltà, a quale sorta di essenza femminile queste aspettative riescono realmente a richiamarsi? Anche ammesso che ci sia un sostrato biologico comune a ogni donna, ovvero l'appartenenza al sesso femminile, come potrebbe questo sostrato determinare l'essenza femminile, cioè la donna, senza che il genere femminile non si intersechi in vario modo con altri fattori quali storia personale, razza, classe sociale, preferenza sessuale, cultura, religione, età di ogni singola donna? La rigidezza dell'essenza donna si scontra con le altre fluide appartenenze individuali e sociali delle tante donne in carne e ossa. Si pensi, per esempio, alla sola fluidità della categoria della preferenza sessuale. Desideri, sogni, fantasie, identità, atti, scelte, riconoscimenti privati e pubblici, tutti di matrice sessuale, vengono a costruire la propria preferenza sessuale in modo variabile e variegato sul piano sia sincronico che diacronico. Semplificando parecchio, è innegabile che non ci sono solo donne femminili, ma anche donne maschili, così come ci sono uomini maschili e uomini femminili. Di conseguenza, ci troviamo di fronte non a due generi, come invece vorrebbe una certa tradizione, bensì perlomeno a quattro generi, destinati senz'altro a incrementarsi, se si contemplano eterosessuali, omosessuali, lesbiche, bisessuali, androgini, ermafroditi, travestiti, transessuali, transgender. Si potrebbe forse riuscire ancora a catturare una qualche essenza in relazione alla donna, chiamando in causa l'essenza della donna femminile, l'essenza della donna maschile, l'essenza della donna eterosessuale, l'essenza della donna eterosessuale maschile, l'essenza della donna eterosessuale femminile, l'essenza della donna lesbica, l'essenza della donna lesbica maschile, l'essenza della donna lesbica femminile, l'essenza della donna bisessuale, l'essenza della donna bisessuale maschile, l'essenza della donna bisessuale femminile e via dicendo. Ma subentrano complicazioni difficilmente superabili non appena consideriamo la storia personale, la razza, la classe sociale, la preferenza sessuale, la cultura, la religione, l'età di ogni singola donna. difficilmente superabili, perché se vogliamo ancora catturare una qualche essenza in relazione alla donna, non possiamo fare a meno di aumentare vie più le essenze, in modo talmente sproporzionato da scontrarci senz'altro con quel principio generale, il cosiddetto rasoio di Occam, che ci conduce alla parsimonia nelle questioni metafisiche, impedendoci di postulare entità inutili e di moltiplicare le entità oltre il necessario. A chi si trincera nella roccaforte dell'essenzialismo e continua imperterrito a insistere sull'ineguaglianza tra genere femminile e genere maschile, a discapito della storia personale, dell'appartenenza a razze, classi sociali o religioni, delle opportunità culturali, delle preferenze sessuali, dell'età, occorre contrapporre con forza proprio la pluralità delle donne in carne e ossa, che non può essere condensata in un unico concetto di genere femminile a cui far poi corrispondere la donna. L'essenzialismo ci costringe ad appellarci a una scura entità, la donna per l'appunto, entro cui costringere a ogni costo le tante differenze tra donne e varietà di donne, per sconfessarle o addirittura cancellarle, fingendo tra l'altro che le diverse donne subiscano le medesime discriminazioni, come se le donne di colore, le donne lesbiche, le donne disabili non fossero ben più discriminate delle donne bianche, delle donne eterosessuali, delle donne normoabili. In fondo, la donna non è che pura apparenza, una finzione al servizio dell'androcentrismo, del razzismo, dell'eterosessismo, della normalità, uno strumento normativo utile per costringere gli esseri umani a comportarsi in determinati modi, per legittimare determinate pratiche e delegittimarne altre. L'idea che tutte le donne presentino similarità essenziali serve, per esempio, a legittimare il fatto che alle donne e agli uomini vengano assegnati ruoli culturali, professionali, sessuali e sociali distinti, che le donne debbano attenersi a canoni di genere cognitivamente diversi rispetto a quelli degli uomini, che i tratti fisici e psicologici delle donne debbano essere femminili, mentre quelli degli uomini maschili. Sicuramente ha legittimato un certo conformismo femminile, costringendo le donne al perbenismo e alla convenzionalità, vietando loro la realizzazione completa delle loro potenzialità. Soprattutto ha legittimato il dualismo uomo-donna, da cui sono scaturiti altri pericolosi dualismi, mascolino-femminio, razionale-irrazionale, attivo-passivo, culturale-naturale, oggettivo-soggettivo e così via. Ricerche scientifiche permettendo queste opposizioni tra uomini e donne possono venire rigettate biologicamente e socioculturalmente in quanto insensate, inique, accessorie, per sposare la causa anti-essenzialista. Quando mette in discussione la categorizzazione tra generi insieme al fatto che sussistano disparità cognitive tra donne e uomini, lo scetticismo, a proposito dell'essenzialismo, conduce a riconoscere l'individualità di ogni donna e di ogni uomo, la sua specificità che si intreccia con tante diverse appartenenze a una storia, razza, classe sociale, preferenza sessuale, cultura, religione, età e con i modi unici che ognuno di noi ha di viverle. Sulla vera donna. In questa nostra civiltà siamo quotidianamente bersagliati da immagini perfette di giovinezza e bellezza, attraverso cui il fashion system e i media concettualizzano la donna, costringendo le donne a identificarsi con corpi irraggiungibili, che risultano normativi. Questo è come la donna deve essere, e rispetto a cui le donne stesse non possono che reagire provando angoscia, inferiorità, vergogna. Se è vero che differenti culture propongono differenti concetti di donna, che nella stessa cultura il concetto di donna non si perpetua, identico a se stesso troppo a lungo, che ci possono essere possibili concetti di donna, è anche vero che il nostro attuale concetto di donna è quello di una donna magra, post-adolescente, bianca, eterosessuale, difficile da incarnare. Nonostante ciò, le donne sono portate a confondere un'apparenza fisica femminile con una necessità fisica reale, a cui è problematico sottrarsi, anche per le cosiddette cattive ragazze, perché se non si tende a corrispondere, almeno in qualche senso, a questo concetto di donna, ci si pone automaticamente al di fuori del contesto sociale di appartenenza e si teme di perdere la propria stabilità o addirittura la propria identità. Il concetto di donna vigente nella nostra civiltà da una parte regala in effetti solo illusioni di stabilità ed identità e dall'altra è rigidamente monolitico, così come si deve in una società androcentrica, razzista, eterosessista, votata alla normalità. Per una tale società la donna deve essere quell'individuo in cui è assente il pene, mentre sono presenti seno, organi riproduttivi femminili, estrogeni e progesterone entro i valori di escursione indicati come normali per le femmine in relazione anche all'età dall'endocrinologia, cromosomi XX. Quell'individuo che assume ruoli adatti a una donna, ovvero che ha una professione, una religione, delle amicizie, degli hobby, delle passioni sportive, tutte al femminile, nonché delle relazioni amoroso-sessuali con un uomo. Quell'individuo che si presenta come una donna, non solo nelle caratteristiche fisiche e psichiche, ma anche negli elementi decorativi. Depilazione, unghie curate, rossetto, trucco, acconciature, gioielli, rappresentano segni di evidente femminilità in alcune società. Queste società non mi attraggono. Filosoficamente ingiustificata, la loro adesione all'essenzialismo si basa solo su logiche di tipo opportunistico. Meglio allora iniziare ad approfondire le tante occasioni di ripensare le donne in tutta la loro individualità e specificità che ci offre l'antiessenzialismo. Ma delegittimando a priori l'esplorazione delle continuità esperienziali e della base strutturale comune tra le donne, cita Bordo, l'antiessenzialismo non sancisce forse la fine di ogni filosofia e pratica femminista? Non credo sia così. Nonostante le tante differenze che corrono tra donne, le donne rimangono accomunate dal fatto di vivere in civiltà e società androcentriche. Sebbene le diverse donne abbiano esperienze dissimili e difformi, immaginate quanto lontano possa essere il vissuto esperienziale di una bambina thailandese forzata a prostituirsi da quello di una bambina inglese destinata a diventare regina, è innegabile che ogni singola donna sperimenti su di sé varie forme di assoggettamento. In effetti ritengo che l'unica definizione di donna che possa aspirare a una certa validità sia la seguente: essere umano, sistematicamente assoggettato, sotto un qualche profilo economico, legale, politico, professionale, psichico, religioso, sessuale, sociale e via dicendo. L'assoggettamento primario e prevalente è di frequente quello sessuale. In modo diretto o indiretto, in misura maggiore o minore, ogni donna subisce commerci, devianze, etiche, leggi, identità, molestie, pratiche, politiche, violenze sessuali, oltre a doveri erotici, procreativi e riproduttivi, così come subisce schemi rappresentazionali dettati da interessi sessuali che classificano volentieri le donne stesse come bambine, bambole, cani, gattine, madonne, nonne, puttane. Al di là delle loro predisposizioni spirituali e religiose, infatti, le diverse civiltà e società esercitano sempre una normatività che si traduce facilmente in forme di vero e proprio autoritarismo sulla sessualità. A farne spesso le spese è stata ed è soprattutto la sessualità delle donne. Diviene allora quasi scontato affermare con Monique Wittig che le lesbiche, per esempio, non sono donne, perché il concetto di donna giunge a una piena elaborazione e assume un valore determinato solo nell'ambito di un atteggiamento normativo che obbliga la sessualità entro i rigidi schemi di un'eterosessualità in cui le donne vengono categorizzate all'unico scopo di essere vessate. In a unified whole, but not too many stand alone. It's too much separation. Can resolve to come together in the new beginning. Start all over. Start all over. Start. We can break the cycle, we can break the chain, we can start all over, in the new beginning, we can learn, we can teach, we can share, the myths, the dreams, the prayers, the notion, we can do better, change our lives and paths, create. Non intendo negare che nel caso in cui ci si consideri donne sbalordisca sentirsi dire tu non sei una donna. Sbalordisce perché tu non sei una donna equivale spesso a tu non sei una vera donna, ove il termine vero viene impiegato a mo' di termine valutativo per esprimere approvazione e disapprovazione. Proprio come quando diciamo i pomodori del supermercato non sono veri pomodori, intendiamo dire che i pomodori del supermercato non sono buoni. Quando diciamo Maria non è una vera donna, intendiamo dire che Maria non è una donna buona. Disapproviamo certi suoi atteggiamenti, comportamenti, ruoli che non rientrano nel concetto di donna valido e in uso in una certa cultura a un determinato tempo. Tu non sei una vera donna. Comporta essere disapprovate e lo si è perché non si corrisponde al concetto di donna vigente, di cui fanno parte parecchie pregiudizi. E allora che concetto è? Sulle differenze tra donna e uomo, a partire dalle differenze sessuali. È possibile che tu non sia una vera donna solo a causa dei tuoi desideri sessuali, che non corrispondono a quelli che la donna deve avere. E allora è errato decretare che la differenza sessuale sia una componente essenziale del desiderio sessuale, errato nel consentire il desiderio sessuale solo tra donna e uomo o tra femmina e maschio, tra la donna e l'uomo, tra il maschio e la femmina. Eppure è forse proprio il fine di circoscrivere il desiderio sessuale al rapporto eterosessuale che rende la differenza sessuale necessaria al desiderio sessuale, a partire dal presupposto che il rapporto sessuale deve essere finalizzato alla riproduzione, piuttosto che all'amore e alle varie rappresentazioni vissute che dell'amore si possono offrire. Di conseguenza, per iniziare a reagire alla donna, sarebbero ragionevoli varie opzioni. Evadere da una nozione di sessualità limitata agli atti focalizzati sulla genitalità, o comunque circoscritti alla sessualità genitale. Pensare alla e vivere la sessualità come un orizzonte in cui esplorare pratiche e interpretazioni diverse da quelle dominanti. Assumersi responsabilità consapevoli rispetto alle proprie preferenze sessuali. Conferire significato ai propri eventi e vissuti sessuali. Anche in ciò le donne si dimostreranno eterogenee e faranno emergere un pluralismo erotico, oltre che sessuale, nel tentativo di superare l'ottica che le considera oggetti da assoggettare, per riuscire infine a relazionarsi da veri e propri individui con se stesse e con gli altri individui. Se ciò si realizzerà, sarà più arduo non accorgersi delle tante differenze che corrono tra donne, più arduo omogenizzare indiscriminatamente tutte le donne attraverso la donna. Quando nella canzone Doglia Mireca Dante parla del vil vostro disire, in riferimento alle donne, adotta lo sguardo del poeta uomo sul corpo delle donne. Tuttavia, se è vero che c'è una sorta di oggettificazione e il desiderio rimane comunque e solo vil, è altrettanto vero che le donne dantesche sono capaci di desiderare, cosicché il desiderio non è più un diritto esclusivo degli uomini. Ci sono molte donne dantesche diverse tra loro. Alcune escono addirittura dal silenzio per prendere la parola. Nella Divina Commedia, che siano all'inferno, in purgatorio o in paradiso, Francesca, Sapia, Pia, Piccarda, Cunizza da Romano sono vittime della crudeltà, della violenza, della sopraffazione maschile. Raccontano storie di abusi coniugali e familiari, di costrizioni, vessazioni, violazioni. Il tanto decantato amor cortese sembra svanire, crollare come su se stesso, mentre le donne concrete prendono il sopravvento su donne che erano mere proiezioni di desideri maschili. Nella commedia ci sono Chiara d'Assisi e l'imperatrice Costanza, donne celebri e importanti che la storia avrebbe ricordato comunque, ma ci sono anche donne di cui non ci sarebbe giunta alcuna eco se non fosse stato per Dante. Tra queste ultime un posto di tutto rispetto spetta a Beatrice, strumento della grazia divina, la donna della salvezza, l'angelicata, la benedetta, la gentilissima, la gloriosa donna della mia mente, che accompagna Dante una volta che Virgilio lo lascia. Sarà anche frutto di una qualche idealizzazione e difatti ci pare una figura celestiale, ma Beatrice si libera dal velo. Quante donne ancora oggi non lo possono fare? Mentre Dante versa lacrime, quanti uomini ancora oggi non piangono per non essere considerati femminucce. Quello di Dante per lei sarà anche un amor cortese, ma a Beatrice è tra l'altro dedicata alla vita nova, ed è senz'altro lei ad aver lasciato, più di altre donne, un segno indimenticabile e permanente nella letteratura italiana, così come nella memoria di tutti noi. È importante tuttavia che Beatrice non venga trasformata in la donna, che quindi la si metta in grado di prendere le debite distanze dall'essere solo una proiezione mentale maschile, la gloriosa donna della mia mente. Non è infatti lecito fare di Beatrice un'icona di alcunché. La donna che m'apparve non può essere la donna, semplicemente perché la donna non possiede alcuna realtà, è solo una semplice, banale apparenza. Questo non impedisce affatto che vi possa apparire una donna. Vi trovate tra altre persone, vi voltate all'improvviso, vedete questa donna, vi colpisce, vi incanta, non sapete assolutamente chi sia, potete solo intuirne la bellezza, la sua straordinarietà, desiderate conoscerla. Desiderate conoscere però questa donna in tutta la sua individualità, particolarità, specificità, non le vostre proiezioni mentali su di lei. Anche perché lei è lungi dal così infantutte. Magari questa donna finirà con l'occupare la vostra anima, le vostre emozioni, i vostri pensieri, i vostri ragionamenti, ma rimarrà sempre una donna vera e non una vera donna, concreta e reale. Una donna che è una persona con la sua mente, il suo corpo, il suo genere, la sua storia personale, il suo colore di pelle, la sua classe sociale, la sua preferenza sessuale, la sua cultura, la sua religione, la sua età, mentre voi sarete persone, donne o uomini, con la vostra mente, il vostro corpo, il vostro genere, la vostra storia personale, il vostro colore di pelle, la vostra classe sociale, la vostra preferenza sessuale, la vostra cultura, la vostra religione, la vostra età. Vi confronterete singolarmente e reciprocamente, anche assieme, con voi stessi, con gli altri e con il mondo che vi circonda. Allora, siamo giunte alla parte alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo letto, lo ricordiamo, Donna m'apparve di Nicla Vassallo, edito da Neri Pozza e pubblicato nel 2009. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento fra 4 martedì. Se volete contattarci, scriverci, lo potete fare all'indirizzo connettive@gmail.it. E vi lasciamo alla trasmissione delle compagne Quando eravamo pelose, storie di donne senza peli sulla lingua. La puntata di oggi è dedicata a Amelia Earhart, la prima donna che ha sorvolato il mondo. Grazie e buonasera. My skin is brown, my hair is platinum blonde today, burgundy tomorrow, my nails is long, I know no sorrow, cause ain't nothing I care to know but wear my check so I can get my tics for the Jay-Z show, and I do aspire to be a video holder. Last night, but that's how it go in the ghetto, in the ghetto. What do they call me? Read the tattoo on the left breast. My name is Lexus. Yeah, girl, my name is Lexus. Get it right. It burned and tore. My hair was pressed and curled.